questa sera non chiamarmi. No, stasera devo uscire con lei. Lo sai, non è possibile. Io lo vorrei, ma poi mi viene voglia di piangere. Certi amori non finiscono, oh no. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. Ma amici mai, per chi si cerca come noi. Normalissimo, vicino irraggiungibile, inafferrabile, incomprensibile. Oh, oh. Ma amici mai, per chi si cerca come noi. Con lei il nostro amore.